Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Continuano le difficoltà per la Grecia, che annuncia di non riuscire a raggiungere gli obiettivi di bilancio e si prepara a nuove misure restrittive. E finisce nell'occhio del ciclone la banca franco-belga Dexia, e preoccupano tutte le banche europee troppo esposte ai titoli dei paesi periferici. Questi i temi della cronaca finanziaria al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Continua la tormentata vicenda greca. Per tirare un sospiro di sollievo non è bastata neanche la conferma dell'erogazione della tranche di aiuti di ottobre da 8 miliardi di euro. Una somma che sarà a malapena sufficiente a pagare gli stipendi. La settimana si è infatti aperta con la notizia che Atene non riuscirà a raggiungere i target di bilancio concordati. Si preannunciano così nuovi giri di vite, tra cui addirittura il taglio di 30.000 lavoratori statali entro la fine dell'anno. Abbiamo chiesto un'analisi su quello che succederà e in generale sulla situazione del pubblico impiego in Grecia a Vittorio Darold del Sole 24 Ore. I 30.000 in realtà poi sarebbero molti meno, perché si tratta in buona parte di prepensionamenti, naturalmente, cioè cercheranno certo di mandare in pensione quelli vicini all'età. Poi ci sono naturalmente quelli che invece saranno in qualche modo ricollocati, cioè spostati da zone dove aree della pubblica amministrazione dove non servono o non fanno nulla in aree che dovrebbero invece essere più utili. Questo quindi un è sogno una anche mobilità, da noi, diciamo, esattamente, una mobilità che non siamo mai riusciti però a applicare in Italia. Però tutte queste cose sono circa 6.000 quelli che poi in realtà restano comunque in esubero. Perché? Perché la vera questione di fondo è che in Grecia ci sono circa 750.000 dipendenti pubblici su una popolazione di 11 milioni di abitanti e di 5 milioni di popolazione attiva, quindi è una enormità, ne bastano 600.000, cioè il 20% in meno. Cioè, ce ne sarebbero 150.000 di troppo? Ce ne sono 150.000 che devono essere ridotti, il dimagrimento prevede il 20% in meno entro il 2015. Come si vede sono questioni che interessano anche noi. Il problema della Grecia è che a luglio si era fatto una stima di crescita del meno 3,5 per quest'anno, e oggi sappiamo che sarà meno 5,5, e per il 2012 di un più 6,0%, insomma poca roba, ma era una crescita. Invece adesso siamo a meno 2,5. Capirai. Con queste cose la disoccupazione salirà dal 15 al 16,4%, la disoccupazione giovanile è sul 32%. E siamo quindi a livelli praticamente enormi. Il debito pubblico arriverà l'anno prossimo al 172% del PIL. Cioè, situazioni incredibili. Se non c'è crescita, la questione non funziona. Qual è il problema? Che qui, in questa fase, la Grecia sta tagliando, sta cercando di tagliare, ma non ha nulla dal punto di vista, diciamo così, propositivo. Oddio, ricordatemi, solo tagli e niente crescita. Questa è una cosa che ho già sentito anche da noi. Esattamente. Il vero problema è trovare delle aree, oltre al turismo e ai noli marittimi, dove ricordiamo la Grecia è prima nel mondo. Che possono esserci. Sulla situazione greca si è espresso martedì anche il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, tornando a smentire le voci di un default dell'uscita del paese dall'Eurogruppo. Sentiamo. We welcomed the bold additional measures recently taken by Greece. Abbiamo accolto con favore le misure coraggiose decise recentemente dalla Grecia, misure che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi in tema di conti pubblici per il 2011 e il 2012. Queste misure sono il segnale del forte impegno della Grecia nel migliorare la strategia fiscale nel medio termine. Chiediamo che queste misure vengano adottate al più presto. Voglio sottolineare che nessuno sostiene il default della Grecia. Faremo di tutto per evitare questa ipotesi. Nessuno, ripeto, sostiene questa eventualità e nemmeno l'uscita della Grecia dalla zona euro. Voglio smentire in modo fermo le voci secondo le quali la Grecia potrebbe essere invitata o decidere di lasciare l'area euro, così come torno a smentire le voci su un default del paese. And I have to firmly deny all rumors concerning any kind of Greek default. E proprio per l'esposizione ai titoli greci e degli altri paesi cosiddetti periferici, stanno traballando nelle ultime settimane le banche francesi. In particolare è finita sotto i riflettori questa settimana la banca franco-belga Dexia, che ha iniziato a precipitare in borsa fin da lunedì 3 ottobre. Dopo un consiglio di amministrazione d'emergenza, il gruppo ha aperto la porta a nuove cessioni ed intese con altri gruppi per risolvere i propri problemi strutturali. Si intravede comunque il rischio di uno smantellamento dell'istituto. Questa banca ha nel suo capitale una forte componente parte governativa franco-belga, il che potrebbe contribuire a rasserenare gli animi, poiché è difficile che questi governi lasceranno fallire completamente l'istituto. La crisi di Dexia, però, ha origini che si possono far risalire alla crisi dei mutui subprime del 2008. Ne ricostruisce la vicenda Salvatore Graziano, direttore di MoneyReport.it. Vedendo un po' quello che è accaduto in questi giorni, in queste ore, anche sui titoli Dexia, verrebbe da dire che ormai anche le promesse degli stati non vengono considerate molto affidabili, pensando solo a quello che qualche settimana e mese fa era stata data come garanzia sul debito greco e sui bond greci, e poi i titoli sono scesi ancora ulteriormente, ancora non si vede una chiara via d'uscita. Diciamo che nel caso Dexia invece la strada d'uscita sembrerebbe fortunatamente più semplice, perché non abbiamo tanti paesi europei, tanti ministri delle finanze che devono prendere e discutere facendo finta di capire di quello di cui stanno parlando. Venendo un po' alla situazione di Dexia, sicuramente la situazione inizia nel 2008, perché questa banca, come purtroppo la maggior parte delle banche nel mondo, quindi è anche un po' antipatico parlare di Dexia solo su questi termini, perché se andiamo a vedere i bilanci delle banche molte italiane, ma soprattutto europee, perché su questo non c'è sicuramente da imparare dall'estero, è una banca che all'attività di finanziamento alle amministrazioni pubbliche, agli enti locali, ha iniziato a utilizzare tutti i soldi che poteva per fare un'attività legata all'acquisto di mutui anche all'estero, attraverso l'acquisizione di una società che è stata una delle più grandi perdite poi per questa società, che è una società americana che si chiama FSA, che ha provocato migliaia di miliardi di perdite, o di asset, come adesso vengono chiamati, tossici, che vuol dire di fatto avere nel patrimonio delle attività illiquide, non vendibili. E peraltro attualmente nel bilancio Dexia al 2010 queste attività addirittura assommano a 52 miliardi di euro, che tenendo conto che è una società che questa ha un patrimonio di circa 9 miliardi di euro, quindi è evidente l'anomalia di una cifra così alta. Ma ci sono banche in Europa, perché adesso parliamo di Dexia, ma che hanno attivi rispetto alla parte tossica veramente molto elevati. Io, per fare qualche nome, visto che i tedeschi vogliono sempre fare i primi della classe, se guardiamo il bilancio di Deutsche Bank, che proprio ieri ha lanciato un profit warning, ha delle attività illiquide che veramente sono nettamente superiori in termini assoluti rispetto a quello di Dexia. Tornando a questa banca, sicuramente i problemi vengono da allora, è iniziato una serie di finanziamenti da parte sia allora da parte dei governi franco-belga, che iniettarono già 6,4 miliardi di euro, ma per una banca con un attivo così importante in realtà quei soldi erano ben poca cosa, anche perché nel corso di questi anni questi asset illiquidi di fatto non sono diventati così facilmente liquidabili, sono ancora lì e il problema ancora non è stato affrontato e risolto, perché i mercati non l'hanno permesso, e anzi purtroppo per il gruppo Dexia questi problemi che si porta avanti dal passato, e ci sono aggiunti altri problemi, come il fatto di avere un portafoglio investito con un'esposizione ad altri paesi, invece titoli teoricamente liquidi, ma che in questi mesi sono scesi molto. E restiamo sulla vicenda Dexia. Abbiamo intervistato anche Stefano Catalano, direttore finanziario di Dexia Crediop, la controllata italiana, che rassicura sulle condizioni di solvibilità dell'istituto. L'attività di Dexia Crediop è un'attività che è legata al finanziamento degli enti locali italiani. Quindi un sistema molto solido, un sistema che non trova rispondenza in altri sistemi economici. L'attivo di Crediop è composto da questo. Ci sono delle attività che sono in difficoltà tra queste, ma parliamo di una cifra di circa 650 mila euro su un totale di bilancio di 41 miliardi. Crediop ha collocato qualcosa vicino ai 18 miliardi di euro nei confronti dei risparmiatori. Più recentemente sono stati collocati direttamente sul MOT, nel passato attraverso reti bancarie. La nostra decisione è stata da tempo quella di emettere obbligazioni che fossero con un contenuto opzionale, quindi molto basso, molto chiari per i risparmiatori, quindi tasso fisso, tasso variabile e modeste condizioni opzionali. Detto questo, quello che interessa però alla fine ai nostri risparmiatori è Crediop è in condizione di poter far fronte al debito che ha contratto, perché questo poi è fondamentalmente la domanda che ci viene fatta. E la risposta è sì, Crediop in questo momento, come altre banche italiane, ha una situazione di liquidità sensibile, quindi dobbiamo far fronte a un mercato che dal punto di vista della raccolta è diventato più competitivo del passato, se questo è possibile, sicuramente più costoso del passato, ma dal punto di vista della nostra capacità di accedere al mercato, la nostra capacità dei sistemi interni di far fronte alle